in primo piano. Tremonti, i nostri conti solidi. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore. Ieri il ministro dell'economia parlava a margine delle riunioni per il salvataggio dell'Irlanda. È l'apertura del Sole, mentre la lotta alla criminalità organizzata, soprattutto l'arresto di Antonio Iovine, preso il capo dei casalesi, titola per esempio il Corriere della Sera, è il titolo un po' di tutte le aperture. Preso Iovine, capo della Camorra, anche per Repubblica. Preso il capo di Gomorra per La Stampa. Poi ci sono molti che si esercitano utilizzando il Vieni via con me, la trasmissione di Fazio e Saviano. Per esempio Vauro, in prima pagina sul Manifesto, una grande vignetta con Maroni che tiene per le manette Iovine, vieni via con me. Ma anche il Quotidiano Nazionale titola così la foto di Iovine in mezzo ai due poliziotti e il titolo vieni via con me. Allora, vedremo più avanti perché è ampia la pagina dedicata non solo a questo arresto ma anche appunto sulle polemiche, alle polemiche tra Saviano e il Ministro degli Interni Maroni. Le segnalazioni per iniziare, la prima viene dalla Stampa, pagina 20, Alessandra Cristofani racconta di quello che viene conosciuto come il mostro di Foligno, ve lo ricordate, Pierluigi Chiatti. Chiatti, prove di libertà, permesso premio dopo 17 anni di carcere. Il cosiddetto mostro di Foligno, Luigi Chiatti, che nel 92 uccise Simone Allegretti di 4 anni, nel 93 Lorenzo Paolucci di 13 anni, ha goduto di un permesso premio lo scorso giugno, se ne è venuto a sapere però solo nei giorni scorsi, e non è la prima volta che gli avvocati tenteranno anche, fa sapere Alessandra Cristofani, di ottenere anche una libertà. Una semilibertà, un'impresa non facile perché ci vuole un datore di lavoro pronto ad assumere Chiatti, ci vuole un giudice che ne certifica la non pericolosità ed è questo il tema. Attenzione, ci sono anche pagine su Facebook già nate a dire è un pericolo, fermatelo, non lasciatelo libero. Cosa scrisse per esempio di Luigi Chiatti Vittorino Andreoli, lo psichiatra che ne studiò la personalità? La sua personalità lo porta a comportarsi come un prigioniero modello, ma concessagli l'opportunità di uscire, egli ucciderà di nuovo e questo lui lo sa perfettamente. È tutto scritto nero su bianco, racconta La Stampa anche il criminologo americano George Palermo, che lo studiò, uno dei maggiori esperti mondiali di assassini seriali. Lo definì un killer abortivo perché, come del resto ammesso dallo stesso imputato, se non fosse stato catturato avrebbe inevitabilmente continuato a uccidere. È tutto già scritto. Ora vedremo se ci saranno semilibertà, perché ovviamente è un detenuto modello in tutti questi anni, e se ci saranno quindi le libertà per Luigi Chiatti. Detto questo, le relazioni scolpite nella pietra dei psichiatri parlano chiaro su che tipologia di carattere è. Chiatti, prove di libertà, permesso premio dopo 17 anni di carcere. Lo trovate sulla Stampa. Mentre, attenzione, sia sul Fatto Quotidiano che su Repubblica, il Fatto Quotidiano con Marco Lillo, a pagina 6, lo titola così. Sorcini verdi per Renato Zero. Indagato per evasione e frode fiscale. Renato Zero, il cantante accusato di evasione e frode fiscale per un giro di fatture false per 2 milioni e 311 mila euro dalla Procura di Napoli, dal PM Vincenzo Piscitelli, in una società col fratello Giampiero e con Stefania Tucci, che è anche nota per essere la ex moglie di Gianni De Michelis. Secondo l'accusa, il cantante evadeva le tasse e portava i soldi all'estero, un conto a Monte Carlo denominato Scaleno. Tra l'altro fa sapere il triangolo, proprio come il famoso triangolo. Fa sapere il fatto, come il famoso triangolo della canzone celebre di Renato Zero. Anche per Repubblica, evasione fiscale, indagato Renato Zero. Dario Del Porto ne parla a pagina 22. Non è solo che l'ultimo dei grandi, di grandi personaggi pubblici, ricordate i precedenti, li ricorda Repubblica, Alberto Tomba, Valentino Rossi, Zucchero, tutti accusati, chi ha smentito, chi invece ha pagato mettendosi un po' a posto col fisco, l'ultimo insomma dei grandi personaggi pubblici che hanno questa tipologia di problemi. Chi invece sulla Stampa, pagina 24, grida all'Italia la sua riabilitazione da questo punto di vista è Ornella Muti. Ornella Muti vince contro il fisco, riabilitata agli occhi dell'Italia. La vicenda era di qualche anno fa, era stata accusata di aver evaso 1 milione di euro perché diceva di risiedere a Monte Carlo, invece stava in Italia. Ebbene, la Cassazione in realtà gli ha dato ragione. Ha dato ragione all'attrice Ornella Muti. Cadute tutte le accuse, non deve pagare 1 milione di euro all'Agenzia delle Entrate, e dunque Ornella Muti dice: finalmente, non succede spesso, sono infinitamente grata dell'idea di potermi riabilitare agli occhi degli italiani con lo stesso risalto col quale sono stata infangata, e tutto ciò mi rende felice perché amo l'Italia. Ornella Muti vince contro il fisco, riabilitata agli occhi dell'Italia. Ne parla La Stampa, pagina 24. Notizia certamente del giorno, una notizia splendida, una notizia bella, è l'arresto di Antonio Iovine, il capo, uno dei capi dei casalesi, come titolano un po' tutti i giornali. Vedrete tra l'altro questa foto di questo Antonio Iovine, detto Ninno, che sorride, ride proprio in mezzo ai poliziotti, per cui è surreale l'immagine. Ci sono i poliziotti che ridono per l'arresto, felici, e lui in mezzo che ride. Perché? Così. Cercheremo di chiederlo anche a Raffaele Cantone, che è il magistrato che conosce molto bene, sarà nostro ospite per l'intervista alle 8:20, il significato di quel sorriso di Oninno arrestato ieri, Antonio Iovine. Faccia da bambino, il manager del crimine, è un bel profilo che Guido Ruotolo gli dedica sulla Stampa a pagina 3. Ne scrive anche Roberto Saviano, che sapete è al centro delle polemiche anche col ministro Maroni, e questo è il tema del nostro sondaggio. Roberto Saviano in prima pagina di Repubblica: finalmente è stato arrestato, era il viceré, ma ormai i viceré dopo 10 anni diventano quasi re. E infatti lui e l'altro latitante, Michele Zagaria, sono i due capi che dopo l'arresto di Sandokan Schiavone hanno diviso il clan in una sorta di diarchia. Onin, il bambino, perché col suo viso da fanciullo era arrivato giovanissimo ai vertici del clan. Anche Saviano poi a pagina 3 ne fa un lungo profilo, racconta la spietatezza, il rigore di come ha gestito anche rapporti all'interno della sua famiglia, con davvero grande durezza, per esempio nei confronti di Rosanna De Novellis, la vedova di suo fratello Carmine, ucciso per ritorsione, che quando ha deciso di risposarsi con persone che erano fuori dal clan familiare è stata allontanata con grande inflessibilità, perché pretendeva di mantenere gli agi e i lussi concessi alle vedove rispettose nonostante avesse perso ogni privilegio, perché in casa faceva comandare un estraneo, e dunque allontanata, per lei niente più stipendio mensile, niente più pagamento del mutuo, il divieto assoluto di portare anche un fiore sulla tomba del defunto marito. Poi tra l'altro Saviano però conclude l'articolo tornando su quello che è il tema della polemica con Maroni. Se la battaglia finisce con le manette, per i boss ci saranno i sorrisi, come quelli mostrati dal Ninno. Sorrisi come a dire: in carcere vado a comandare, tutto questo l'avevo già previsto, vi ho fatto il regalo, così vi sentite tutti più efficienti e buoni, tanto fuori restano i miei capitali. Ed ecco qui Saviano: è il nord il centro degli investimenti mafiosi casalesi, calabresi e siciliani, un nord troppo aperto a prenderne i capitali, a divenire cassaforti sicuri del reinvestimento, un nord dove le mafie cercano di interloquire con chi comanda in politica, un nord che si crede immune, invaso, quando invece sempre più spesso è complice e connivente. E quindi Saviano su questo insiste, tra l'altro, ma c'è su questa querella che sarà il tema del nostro sondaggio, ripeto, state con Maroni o Saviano? Vi chiediamo oggi di schierarvi su Radio24.it. Maroni ieri è andato a Matrix, prima aveva detto querelo Saviano, poi gli ha teso la mano, ieri a Matrix ha detto non una vera e propria richiesta di pace, ma insomma ha detto: vorrei dirgli a Saviano di deporre le armi, che lui ha imbracciato contro la Lega il partito degli onesti, mentre Umberto Bossi è più duro, ha detto: se lo querela fa bene. Poi ha risposto ai giornalisti con una pernacchia, quando gli chiedono delle cose ogni tanto Bossi risponde con una pernacchia, interpellato sull'intervento di Saviano, una pernacchia Bossi. E poi vedete in questo tema di duello oggi entra durissimo il Giornale. Il Giornale intanto inizia una campagna, una firma contro Saviano, questo è il titolo di prima pagina. Come aderire? Via fax, oppure insomma trovate tutti i modi, via fax, sms, via mail. La mail è nonsonomafioso@ilgiornale.it. una firma contro Saviano, che dà del mafioso al nord. Questa è l'iniziativa che parte. C'è intanto un Vittorio Feltri che verga un editoriale durissimo. L'autore di Gomorra, con toni ispirati da Guru, fra un sospiro e un pianto dice che la criminalità terrona ha sfondato la linea del Po e prossimamente quella del Piave. Prepariamoci a pagare il pizzo e a sostituire gli SMS coi pizzini. Prepariamoci a convivere col picciotto e il mamma santissima, con l'ominicchio e il quacquaraquà. Non siamo mafiologi, né intendiamo diventarlo, non avendo tempo che per lavorare. Ma quelle di Saviano, più che rivelazioni e riflessioni, mi sembrano fanfaronate. E poi sentite come conclude l'editoriale Vittorio Feltri. Se il tessuto sociale è sano, le mafie subiscono il fenomeno del rigetto. Se non è sano, vince il cancro, che in effetti ha vinto in Sicilia, in Campania, in Calabria. Si calmi, signor Gomorra, Sondrio non è Casoria, Como non è Torre Annunziata, Brescia non è Corleone. Il nord ha le sue rogne e se le gratta. Lei si gratti le sue e non si illuda di potersi sentir meglio dicendo male di chi paga il conto per tutti, anche per i mafiosi e quelli che li tollerano, rendendosi di fatto loro complice. Saviano, complice anche della mafia. Ma poi l'attacco sul giornale continua, perché a pagina 3 che cosa viene pubblicato? Viene pubblicato un articolo di Saviano, che Saviano scrisse nel 2003, quando non era ancora diventato famoso, nel quale Saviano si immagina nei panni di un soldato padano agli ordini del Senatur. Ed eccolo qui, il Saviano, il sogno di Saviano, i leghisti sono assassini. Su un sito l'autore di Gomorra rivela cosa pensa del Carroccio nel 2003. L'armata padana guidata da Bossi è un esercito pronto a usare il mitra contro immigrati meridionali e negri. L'autore, che si immagina nei panni di un soldato padano agli ordini del Senatur, dice: spara, spara, ma chi spara? No, qui è notte, è tutto nero. Appunto, spara dove vedi nero, più è nero e più spara. Muoviti che scappano, muoviti che li perdiamo, spara. E poi ancora: via mangiatori di lavoro, prostitute che guadagnano sui nostri piaceri, spacciatori, usurpatori di case, profanatori di chiese, orinatori di crocifissi, morite, cani, a lavorare. Padano, mi dice il superiore, non fare il meridionale, spara, spara o non avrai più lavoro. Li abbiamo fatti fuori tutti, 300 più qualche ragazzino, dovremmo arrivare a 330 extraumani. Bel lavoro, ragazzi. E questa è l'immagine raccontata da Saviano, secondo questo articolo del giornale che l'ha recuperato. L'allusione è completa: leghisti uguale assassini uguale nazisti. Un'allucinazione savianica che continua. Passiamo vicino a alcune spiagge siciliane. Spara ai pedalò, spara ai pedalò. Ma come? Mi sembrano bagnanti italiani. Spara, cazzo, questi sono meridionali, fanno il bagno mentre al nord lavorano, mentre i nostri compatrioti sgobbano in fabbrica, vicino alla pressa, al fianco delle vacche. Spara, spara al terrone che mangia sul nostro sudore, così imparano questi turisti meridionali a godere alle nostre spalle. Bastardi. Questa è l'ipotetica Napoli colonizzata, pure i terroni sono contagiati dal virus padano. Insomma, il giornale inizia questa campagna durissima contro Saviano con questo articolo rispolverato, con le polemiche. Ma ne è pieno, la Padania, vedete, l'antimafia dei fatti batte l'antimafia delle chiacchiere, l'arresto di Iovine e poi tutta la polemica sulla RAI. Che dire, c'è poi però grande spazio anche sui giornali all'allarme lanciato dalla direzione investigativa antimafia. In aree della Lombardia le cosche influenzano l'economia e la politica, questo sia sul Corriere sia su Repubblica. Su Repubblica viene anche citata tutta la mappa delle famiglie di 'Ndrangheta e dove sarebbero le zone di controllo, per esempio a Lecco i Coco trovato strangio, a Bollate i Mandalari, a Monza i Mancuso Cristello, a Pavia i Neri Parranca, a Milano i Parranca, a Trezzane e Buccinasco i Barbaro Papalia Sergi. Questa è la mappa, diciamo, della direzione investigativa antimafia. In ogni caso, state con Saviano o con Maroni, ne parleremo alle 8.30, votate su Radio24.it. Io voglio capire di cosa si parla in politica. In politica, ve l'avevo già detto ieri, il 14 è la data di svolta sicuramente della legislatura. C'è un mese da qui al 14. A che cosa assisteremo secondo voi, come vi ho detto ieri? A i cambi di casacca o alla caccia al voto, perché si voterà la fiducia o la sfiducia sui margini risicati. Ed ecco qui allora, il Corriere: task force al lavoro per catturare onorevoli. Consolo guida i finiani sofferenti. E saranno articoli, li trovate su tutti i giornali, il Corriere, Libero, La Stampa, il Sole 24 Ore, ecco qui, premier a caccia di 9 deputati. Sul Sole 24 Ore Mariolina Sesto racconta addirittura di Pannella, che avrebbe detto: noi abbiamo 6 radicali, cioè sono del PD ma sono radicali. Quando si riconosce carattere e dignità di interlocutore politico al più antico partito nato in Italia, che sia Bersani, Berlusconi, Bossa e Di Pietro, noi riteniamo non solamente utile ma anche necessario un dialogo costruttivo. Accidenti, cioè cosa fare? Pannella, che vuol dire? Che i radicali eletti nel PD potrebbero interloquire con Berlusconi e quindi votare la fiducia? Qui in questo mese ne sentiremo delle belle. Caccia i transfughi in transatlantico. Per Repubblica al PDL serve quota 316 o qualche assenza. Attenzione, perché c'è la possibilità anche di qualche assenza. Lo dice anche Libero molto chiaramente. Libero titola: Silvio è sicuro, Futuro e Libertà si spaccherà. E addirittura il prima pagina di Libero, il titolo è questo, incredibile: dai che Silvio ce la fa. Salvatore Dama racconta, per esempio, a pagina 7, che qualcuno potrà tornare con Berlusconi dei finiani, o passare con Berlusconi, o votare con Berlusconi la fiducia. Qualcun altro potrà essere colpito nottetempo da un'influenza intestinale, tale da giustificare il banco vuoto il giorno del voto della fiducia. C'è anche che cosa? Un'intervista, per esempio, a Maurizio Scelli. Ve lo ricordate, il capo della Croce Rossa a Baghdad, la Croce Rossa italiana? Maurizio Scelli, oggi parlamentare del Popolo della Libertà, pagina 11, intervistato da Caporale su Repubblica, da Antonello Caporale. Ha detto: io ero a Baghdad a difendere l'onore dell'Italia e di Berlusconi col Kalashnikov, davanti ai Kalashnikov. Riportai in Italia il povero Quattrocchi. Concessi umanità, protezione, soccorso, aiuto, e qui sono senza ruolo, senza rapporti, senza un saluto. È incredibile, vedo vagare fantasmi. Sono come quei giocatori passati dalla nazionale al campionato dilettanti. Sto qui a parlare con lei, dice al giornalista, della Valle Peligna. E che Antonello Caporale dice: mi spiace davvero per lei. Ma sa, hanno bisogno di nominati, gente senza carisma, senza passione. Sono abruzzese, ci sono state le elezioni, uno che avesse pensato a me. Insomma, un affranto Maurizio Scelli, al che gli dice Antonello Caporale: quindi lei forse lascia Berlusconi e va dove, non so, da Fini, dove la vogliono valorizzare di più. Io sono leale, quindi vada da Berlusconi e glielo dica. Sono anni che attendo di parlargli. Ma mi scusi, Palazzo Grazioli ha le porte spalancate, entra chi vuole. E Scelli: anch'io non capisco. Che ci sia anche della maretta e della tensione nella maggioranza, lo si può certificare da Fabrizio D'Esposito sul Riformista. Fabrizio D'Esposito inizia, pare di capire, una sorta di cronaca un po' surreale ma un po' veritiera anche, cronache dal bunker, nel quale racconta in retroscena di quello che sta succedendo nella maggioranza. Per esempio, sentite cosa racconta. Secondo quanto ha riportato peraltro il settimanale Chi, due ministre molto in vista si sono incontrate a Milano, al Teatro Nuovo. Tra le due però è sceso il gelo, non c'è stato nemmeno un ciao, addirittura una delle due ha chiamato l'altra gentilmente la cagna. E lo ha fatto davanti a tutti ad alta voce. Ora, chi sono queste due ministre non citate? Risposta fornita da un testimone del fatto, racconta Fabrizio Esposito. Sono Maria Stella Gelmini e Michela Vittoria Brambilla. E chi ha dato della cagna all'altra, sempre secondo il Riformista, è stata la Gelmini a chiamare cagna la collega. Ultimamente Maria Stella è molto nervosa. Un altro dubbio riguarda la fonte del settimanale Popolare. Secondo qualcuno la fonte è la stessa Brambilla che ha dato la notizia a Chi. Vabbè. Seconda notizia dal bunker, cronaca dal bunker, fermenti padani. Ci sarebbe un po' di tensione tra Umberto Bossi e il suo cerchio magico, come è stato definito, e Calderoli, che è considerato uno dei più berluscones di tutti i leghisti, tanto che Calderoli, racconta il Riformista, è stato espulso per un giorno dal partito, dalla Lega, ma non si è saputo nulla. alla vicenda, riguarda la vicenda Brancher, il ministro Brancher, quando Calderoli ha detto Bossi lo sapeva che era stato nominato. A Via Bellerio, nella sede della Lega, scattò un procedimento per punire Calderoli con l'obiettivo di espellerlo, ma nel corso della notte qualcuno mise a tacere la cosa e fece sparire il documento. Misteri sovietici della Lega. Vabbè, ci sarà anche questo, da qui al 14 dicembre. Colpi bassi, cronache dal bunker e tentativo di circuire parlamentare a dire vieni con me, vieni via con me. Anche qui si può utilizzare il titolo della trasmissione. Tanto che Marchionne, l'amministratore delegato della Fiat, come riporta la stampa a pagina 9, dice la crisi c'è o non c'è. Ieri parlando a Los Angeles ha detto siamo persone poco serie, non è un bel modo di gestire il paese, le persone serie queste cose non le fanno, e questo è il problema. La mancanza di chiarezza è quello che innervosisce il mondo intero. Una possibile crisi di governo, o ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo. Marchionne, la crisi c'è o non c'è? Dove c'è la crisi finanziaria sicuramente è l'Irlanda, e per il secondo giorno consecutivo il Sole 24 Ore parla di questo. A dire la verità, il Sole 24 Ore mette in prima pagina Tremonti, la rassicurazione di Tremonti: i nostri conti sono solidi, l'Italia è al sicuro. A pagina 3 Isabella Bufacchi ne parla da Bruxelles, dove ieri la Tremonti ha detto non è il problema l'Italia, qui a Bruxelles è considerata parte della soluzione che riguarderà gli stati cosiddetti periferici, l'Italia non collassa per le turbulenze dei mercati. Incalzato dalle domande sul fatto se si sia parlato anche dell'Italia, di un possibile futuro paese con qualche problema dopo aver sistemato Irlanda, Grecia, Portogallo, eccetera, nessuno ha considerato tale questa situazione. L'unica grande criticità dell'Italia è il debito pubblico. E tra l'altro c'è anche un'intervista che Marco Mussanè fa a Piercarlo Padoan, che è il numero 2 capo economista dell'OCSE, il quale a pagina 3 del Sole 24 Ore da questo punto di vista rassicura: l'Italia è decisamente fuori dal gruppo di paesi a rischio, ha un debito alto, è vero, ma costante. Anche durante la crisi è salito pochissimo. I mercati si spaventano quando c'è una rapida progressione del debito. Mentre Adriana Ceretelli a pagina 2 racconta di come sarà il salvataggio dell'Irlanda. È partita la missione europea per salvare Dublino. Vado alla segnalazione conclusiva, la trovo su Libero. In realtà Libero riporta un articolo del Fatto Quotidiano, ma in realtà il Fatto Quotidiano online, sulla pagina, sul Fatto, io non l'ho trovato. Maledizione Cav, pure Allegri finisce nel mirino dei magistrati. Allegri è il nuovo allenatore del Milan, e non toccatemelo perché sta facendo bene. Secondo il Fatto Quotidiano, riportato oggi da Libero, nel 2008, fermato dai carabinieri per un sorpasso azzardato, insomma, quando allora allenava in Serie B, scoppia la discussione, la lite con i carabinieri, con Allegri che avrebbe detto ai carabinieri queste frasi: le brigate rosse non facevano poi così male. E poi a un carabiniere meridionale: stai zitto Terrone, a te faccio perdere il posto. Ma accuse gravissime, una lite accesa. Secondo Libero, oggi a pagina 10, pure Allegri finisce nel mirino dei magistrati per aver detto queste frasi presunte nel 2008 per un fermo dopo un'infrazione al codice della strada. Ma Maroni o Saviano, conquistate, votate su Radio24.it il GR.